Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi parliamo di politica, in particolare della politica della Prima Repubblica. Lo facciamo attraverso gli occhi di uno dei maggiori e più importanti testimoni di quel mondo, un testimone non dall'interno perché non è un politico, ma è un grande giornalista, uno dei principi della cronaca politica, cioè Giampaolo Pansa, che ha appena pubblicato I cari estinti, faccia a faccia con 40 anni di politica italiana, pubblicato da Rizzoli, 516 pagine, 22 euro. Pansa tutti lo conoscerete, ricorderete il ruolo che ha svolto nel descrivere, nell'illustrare, nel tentare di spiegare i meandri della politica italiana e di darci una carrellata di ritratti dei grandi protagonisti appunto della politica, di tutti i partiti, di tutti i colori, sempre colti con una capacità implacabile di descrizione e con lo sforzo naturalmente di capire che cosa ci fosse dietro questi personaggi, quali politiche venivano portate avanti, quali fossero gli interessi in gioco. Insomma, un cronista che è stato veramente uno storico di quella che ormai chiamiamo Prima Repubblica. In questo libro troviamo appunto una rielaborazione di tutta la storia giornalistica di Pansa, e i suoi taccuini, i suoi appunti diventano una sorta di libro di storia appunto sulla Prima Repubblica vista attraverso i suoi grandi personaggi. Ma sentiamo da Pansa quali sono gli elementi principali del suo libro. Buongiorno a Giampaolo Pansa. Buongiorno a voi, caro Carrubba, e al Sole 24 Ore e la sua radio. Grazie. Allora, i cari estinti, ma più cari o più estinti? Cioè, prevale più la nostalgia di quel mondo o più la consapevolezza che la Prima Repubblica è davvero finita? Ma estinti è un dato di fatto, sono estinti politicamente, perché a parte alcuni che sono ancora molto vitali, cito Andreotti, ma soprattutto Ciriaco De Mita, ho fatto un dibattito con lui durante una trasmissione televisiva su questo libro, e gli altri, c'è ancora Forlani, certo, visto che Colombo ha compiuto 90 anni, uno meno di Andreotti, però dal punto di vista politico sono defunti, se non sepolti, defunti. I cari è un po' l'origine di questo libro. Anch'io sono un orfano della Prima Repubblica per ragioni di età, per il tanto lavoro fatto in quei decenni su tanti quotidiani, anche settimanali, e cari perché gli estinti erano, all'inizio volevo intitolarlo I dinosauri, poi mi è stato bocciato il titolo da chi vive con me, ma anche dall'editore, per cui abbiamo poi inventato I cari estinti. Cari perché comunque rappresentano un'epoca della vita politica italiana che non era poi disprezzabile, come si è cominciato a dire con la vicenda di Tangentopoli. Infatti a un certo punto cito una frase che lei cita di Cefis, il quale diceva: la nostra classe politica è una delle migliori, quello che non va è il sistema istituzionale, che a suo parere dava vita a una grande instabilità politica. Ecco, quella frase è ancora attuale? Ma certo, oggi devo dire che è più attuale che mai, perché non è dal punto di vista, a parte qualche mutamento di legge elettorale e l'emergere di figure dominanti, a cominciare da quella di Silvio Berlusconi, oggi ci metterei accanto anche Bossi, ma poi naturalmente ci sono i campi delle opposizioni, il sistema è rimasto sempre lo stesso, soprattutto la burocrazia pazzesca. Quello che vedo che voi, sia come radio che come quotidiano, battete molto su questo tema, ma io la sperimento sulla mia pelle tutti i giorni. Per abbattere un albero malato ho bisogno di 20 permessi, per poter sistemare una cosa da nulla devo aspettare dei mesi. Chi ha bisogno di licenze edilizie, io per fortuna non ne ho bisogno, affronta delle via crucis pazzesche. Ma l'Italia è, prima ancora che essere malata di partitocrazia, lasciatemi fare questa battuta, è ammalata di burocrazia, ma sono i politici che non vogliono cambiarla. E a suo parere perché? Ma a mio parere, ma il perché è molto semplice, perché gli conviene un sistema come questo, perché se tutto il meccanismo attraverso il quale il cittadino deve passare per avere quello di cui ha diritto non funziona ed è contorto, è ambiguo, qualche volta avvelenato dalla corruzione, e finisce con l'essere fatalmente agli ordini del sistema politico. Certo. E se il politico non avesse, come dire, una sua giurisdizione personale a base di voti su una burocrazia che non funziona, la sua carriera finirebbe. Quindi non vogliono farlo perché questo sistema gli fa comodo, perché questo sistema spinge il cittadino ad essere un vassallo di questo o quel politico, può essere il sindaco del comune, presidente della provincia, il presidente della regione o il deputato della sua circoscrizione, e non è più libero di prima. Si creano due classi di cittadini che non sono più soltanto i ricchi e i poveri, perché anche qui le differenze certamente sono vistose, ma sono quelli che hanno bisogno della protezione politica e quelli che possono farne a meno. Senta, parlando degli anni del terrorismo, lei usa l'espressione dei bassi fondi della faziosità italiana, che sarebbe stato il clima nel quale maturava un'ambiguità, un'incertezza, un'ipocrisia che certamente caratterizzò quegli anni. Oggi siamo in una situazione meno tragica, ma insomma la faziosità è sempre molto forte in Italia. Ma è fortissima, ma anzi devo dire a voi di Sole 24 Ore che se osserviamo come funziona la politica in Italia, noi abbiamo di fronte, ma questo mi è capitato di dirlo anche non soltanto a una radio importante come la vostra, ma negli articoli che sto scrivendo, e questa è una fabbrica di odio, è una fabbrica di insulti, una fabbrica di faziosità. Senta, io ho compiuto a ottobre 74 anni, ne ho uno in più del presidente Berlusconi, faccio il giornalista dalla fine degli anni 60, non ho mai visto un clima avvelenato come questo. Quindi da questo punto di vista il mio terrore è che dopo tanti anni di guerra civile di parole, perché di questo si tratta, qualcuno non cerchi di passare alla guerra civile con altri mezzi, con altri sistemi, perché allora l'Italia, che è molto meno solida come sistema politico di quanto fosse negli anni 70 quando è nato il terrorismo sia rosso che nero, a quel punto l'Italia salta per aria e possiamo chiudere tutti i baracchi e burattini. Senta, fra i cari estinti della Prima Repubblica c'è una certa sinistra. Nel brano conclusivo del suo libro, che è una sorta di brano apocrifo di memorie di Achille Occhetto, questi prende atto del fatto che quella sinistra non poteva più sopravvivere col sistema maggioritario. Ecco, questo spiega la crisi della sinistra attuale, solo questo? Ma no, ma non soltanto quello. Intanto, vabbè, questo ultimo capitolo, che è uno, penso, dei più divertenti del libro, tra parentesi, io non ho voluto fare un trattato di politologia perché non sono un politologo, né di sociologia politica perché non me ne intendo. Sono soltanto un cronistaccio che ha visto molte cose, che ha ancora una buona memoria, che ha tanti taccuini, e ho fatto una specie di fumettone sulla storia della Prima Repubblica, però che ha inspiegabilmente, almeno per me, molto successo e aiuta a capire non soltanto ai giovani che ammesso che leggono i libri che cosa è accaduto, ma a chi è più anziano a rivivere dei percorsi che poi lui ha fatto nella sua giovinezza. E la sinistra italiana ha cominciato a morire da molto tempo prima. Se dovessimo fissare una data di morte da mettere su un manifesto di morte politica, intendo, farei anche prima del 1989, che è l'anno in cui cade il muro di Berlino, l'epoca in cui si disfa l'Unione Sovietica, in cui Occhetto tenta di cambiare il nome al partito e ci poi riesce, ma senza cambiare il partito. La sinistra italiana ha cominciato a morire, posso dire una cosa paradossale, nel primo dopoguerra, cioè 46-47, quando non ho avuto il coraggio di fare quello che hanno fatto i socialisti, anche massimalisti tedeschi, che a Bad Godesberg si sono trasformati e hanno deciso di diventare un partito socialdemocratico. Se il PC avesse avuto questo coraggio, in Italia ci sarebbe stata l'alternanza nei governi tra il centrismo democristiano e una sinistra democratica. Era poi il sogno di Craxi, ma lui non ha avuto la forza poi di realizzarlo. Le cose in Italia sarebbero andate diversamente. Forse con una politica oculata non ci sarebbe stata nemmeno Tangentopoli. Quindi morti, defunti, in questo caso estinti, come dice il titolo del libro, da molti anni prima di quanto registrano poi le cronache del giorno per giorno. Bene, grazie a Giampaolo Pansa, autore dei I cari estinti. Buona domenica. Grazie a voi, buona domenica a tutti. Per approfondire e comprendere le ragioni del fallimento dei comunisti italiani è utile leggere il libro di Francesco Cundari, Comunisti immaginari, tutto quello che c'è da sapere sul Partito Comunista Italiano. È pubblicato da Vallecchi, 356 pagine, 16 euro. Che cosa è stato del comunismo italiano? Ma soprattutto che cosa è stato del Partito Comunista e dei suoi dirigenti? Come erano nati questi dirigenti? Come furono svezzati? Che cosa diventarono? A queste domande tenta di rispondere appunto questo libro. E come spiega Giuseppe Vacca nell'introduzione, esso prova appunto a ricostruire il significato della storia del PCPDS-DS basandosi su una conoscenza approfondita della loro vicenda per evidenziarne la cultura. Il libro è organizzato dall'autore come una sorta di lemmario, da Avanti Popolo a Zelig, per cogliere appunto vari aspetti della cultura comunista, spesso con sarcasmo e ironia, e per capire l'evoluzione di questa cultura da Togliatti ai suoi ultimi eredi. A proposito di comunisti, vi segnalo il compendio del Capitale di Carlo Cafiero, che fu un famoso anarchico italiano, era di Barletta, visse tra il 1846 e il 1892 e conobbe personalmente Marx ed Engels. Questa sua operetta è del 1879 e con la quale inaugurò una serie di volumetti definita Biblioteca Socialista. Il Capitale, dice Cafiero, è una guerra gloriosa per la potenza del nemico, per la potenza ancora più grande del capitano che li intraprendeva con sì grande quantità di nuovissime armi, di strumenti e macchine di ogni sorta che il suo genio aveva saputo ritrarre da tutte le scienze moderne. Quindi, come vedete, un libro militante col quale Cafiero cerca di far conoscere al popolo il complesso argomentare del primo libro del Capitale stesso. Il libro è pubblicato dalle edizioni dell'Asino, 192 pagine, 12 euro. In questa stessa collana compaiono altri piccoli classici dell'economia, per esempio il libro di Aldo Capitini, Le tecniche della non violenza. Aldo Capitini è appunto uno dei maestri di questa pratica politica, è un libro questo del 1967 nel quale Capitini riassume le sue teorie. E poi più recente è il libro di Costantino Cossu, questo è un libro di un giornalista di questi giorni, che invece ci presenta una piccola antologia degli scritti di Antonio Gramsci. Gramsci serve ancora, sempre edizioni dell'Asino, 152 pagine, 12 euro. Abbiamo parlato di Carlo Cafiero, di un anarchico, e a proposito di anarchismo vi segnalo un curioso libro del 1894 scritto da un autore famoso di cui l'anno scorso si è celebrato il centenario della morte, Cesare Lombroso, lo scrittore famoso per la sua teoria sulla fisionomica. Lombroso era un positivista di derivazione darwiniana che scrive Gli anarchici, pubblicato dalla Vita Felice, 142 pagine, 9,50 euro. Questo libro viene scritto all'indomani dell'uccisione del presidente francese Sadi Carnot, un'uccisione da parte di un anarchico italiano, Sante Casero. E qui appunto Lombroso ripropone la sua tesi applicandola agli anarchici, la tesi cioè della correlazione tra l'aspetto fisico e la propensione a delinquere, una tesi che naturalmente oggi è unanimemente rigettata ma che allora ebbe grande peso. Lombroso illustra questa teoria anche con le immagini di rivoluzionari e rei politici, che divide in due categorie i mattoidi e pazzi morali, tra i quali troviamo per esempio Cola di Rienzo e Marat, e i rei politici per passione, tra cui troviamo la Cordeo, Felice Orsini e Mirabeau. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Dopo aver parlato della politica italiana, parliamo della lingua italiana. Nelle settimane scorse ci sono state diverse polemiche anche sull'uso all'estero, in particolare nell'ambito dell'Unione Europea e degli uffici nei quali si svolge il lavoro politico della comunità. Insomma, il tema dell'italiano è tornato in auge e quindi può essere utile chiederci che tipo di italiano noi parliamo, e vi segnalo per questo alcuni titoli, anche per parlarlo meglio. Il primo è il libro di Massimo Birattari, Italiano per chiunque usi la penna, il gesso, il computer o la lingua, è pubblicato da Ponte alle Grazie, 414 pagine, 17 euro. Questo è un corso di sopravvivenza per farci superare i dubbi che molto spesso la nostra lingua ci pone. E quindi il libro si può leggere o da cima a fondo e così ripassare magari un po' la grammatica della nostra lingua, ovvero andare a consultare voce per voce quando abbiamo qualche dubbio, che viene qui spiegato e illustrato anche da alcuni riferimenti letterari. Non manca qualche gioco, qualche quiz che rende particolarmente divertente imparare meglio la nostra lingua. Ancora più agile, viva il congiuntivo di Valeria Della Valle, che è una docente all'Università Sapienza di Roma, e Giuseppe Patota invece insegna all'Università di Siena. Il libro è pubblicato da Spelling e Kupfer, 170 pagine, 15 euro. Qui abbiamo il congiuntivo che viene assunto come simbolo del degrado della lingua, lingua che rischierebbe, secondo molti, di perdere la sua ricchezza e la sua duttilità. Eppure il congiuntivo, di cui si lamenta troppo spesso la morte, ha ancora i suoi fans. Addirittura esistono dei gruppi che cercano di difendere anche su internet questo modo della nostra lingua. È un impegno ammirevole, ma in certi casi, secondo gli autori, anche esagerato. In fondo anche i giovani, nonostante tutto, ancora usano il congiuntivo, come per esempio prova una canzone che viene citata nel libro, la canzone Domani degli Articolo 31. Per farmi stare zitto mi schiacciavi sulla bocca il tuo cuscino, fumare sigarette, raccontarti barzellette fino al mattino, e mi divertivo quando mi correggevi se sbagliavo. Un congiuntivo. E insomma, per usare meglio il congiuntivo, qui trovate un viaggio in 5 tappe per non perdervi. 18 obiettivi invece sono quelli che indica Lucio D'Arcangelo, che è un glottologo, in Breviario d'Italiano, è pubblicato da Solfanelli, 62 pagine, 7 euro. Qui non abbiamo consigli, ma aspetti del problema della tutela dell'italiano, che viene minacciato anche dalla perniciosa tendenza, secondo me una delle più pericolose tendenze, alla burocratizzazione della lingua. Una tendenza che viene così descritta dall'autore Lucio D'Arcangelo, appunto. L'italiano contemporaneo non soffre solo di anglomania, ma anche di una neologite acuta, come potremmo chiamarla. Una tendenza a coniare neologismi, parole nuove, non per nozioni nuove, il che sarebbe naturale, ma per cose comunissime per le quali esistono parole altrettanto comuni mai cadute in disuso. Prima si diceva fornai, poi si è detto panettieri e oggi panificatori. Prima due sillabe, poi quattro e oggi tre volte tanto. Povero francese, fermo al suo antiquato boulanger. Povero tedesco, senza nessuna possibilità di espandersi, se non dicendo Bäckermeister. Mastro fornaio, invece che soltanto Bäcker, fornaio. Come se non bastasse, si coniano eufemismi a getto continuo. Invece che bidello, operatore scolastico. E invece che netturbino, operatore ecologico. Che in francese si dice tranquillamente Buer, derivante etimologicamente da bu, cioè fango, e in tedesco Müllmann, uomo della spazzatura, spazzaturaio, senza che nessuno abbia mai eccepito in merito. Con queste ingegnose circonlocuzioni si ottengono due risultati, entrambi negativi. Si gonfia inutilmente il linguaggio e lo si allontana sempre più dal proprio oggetto. Ci troviamo di fronte a una lingua che dovrebbe essere del progresso e invece è dei miracoli, perché trasforma tutto ciò che tocca. Un linguaggio politicamente ipercorretto che fa dell'Italia un paese delle meraviglie, diviso tra operatori e fruitori di qualcosa che diventa sempre meno fruibile. Questa antilingua scaccia, come fa la moneta cattiva con quella buona, la lingua vera, quella di tutti. Anche Andrea De Benedetti, che è un esperto sull'argomento, un giornalista e docente, vuole sdrammatizzare molti integralismi che circolano sulla lingua, integralismi che spesso si identificano in personaggi che l'autore definisce iperdogmatici e pieni di paranoie. E questo impegno viene dimostrato da Andrea De Benedetti nel libro Val più la pratica, piccola grammatica immorale della lingua italiana, è pubblicato dalla Terza, 178 pagine e 14 euro. Andrea De Benedetti indica appunto alcuni cliché che vengono spesso additati e bollati da questi paranoici della lingua. Ecco, in un piccolo elenco: i giovani d'oggi non scrivono e non leggono più. E risponde l'autore: leggere non so, ma scrivere non si è mai scritto così tanto in così tanti modi, sms, posta elettronica, forum, eccetera eccetera. Seconda accusa: il computer ha ucciso la scrittura, vedi sopra. La gente non sa più parlare l'italiano. Falso, ribatte l'autore, anzi rispetto a 50 anni fa il numero degli italofoni è quasi raddoppiato. La televisione ha rovinato l'italiano. Che abbia rovinato gli italiani, ribatte l'autore, non ci piove, ma l'italiano proprio no. La TV ha contribuito a diffondere l'italiano tanto quanto proprio la scuola e l'urbanesimo. E poi, altra accusa, sta scomparendo il congiuntivo, per l'appunto. Un mito anche questo, conferma De Benedetti. Il congiuntivo è molto più diffuso di un tempo, talvolta persino a sproposito. E infine, l'inglese sta colonizzando la lingua italiana. Affermazione condivisibile, aggiunge De Benedetti, solo previa aggiunta dell'avverbiale adesso. 200 anni fa, per esempio, era altrettanto invadente il francese. Fra 40 anni magari toccherà al cinese. E quindi si parla nel suo libro dell'uso appropriato del congiuntivo, di tanti altri luoghi comuni e come avete colto, con spirito leggero e costruttivo, senza drammatizzare, e quindi uno strumento utile per riaccostarci criticamente alla nostra lingua. Il confettino. Lingua, parola, scrittura. Può essere curioso il destino delle parole, e questo almeno è la trama del libro La grande fuga delle lettere di Enza e Mira Festa, che è illustrato da Manuela Santini, pubblicato da Mondadori, 46 pagine, 7 euro. Un libro gioco sugli scherzi cui può dare luogo la caduta di alcune lettere dalle parole che utilizziamo nella nostra scrittura. Ultimi arrivi. Vi segnalo innanzitutto un libro che rientra in un filone molto fortunato, quello della narrativa che viene dai paesi del nord e in particolare dei gialli. E c'è un giallo svedese che è quello di Olle Lönnäus, Il bambino della città ghiacciata, è pubblicato da Newton Compton, 376 pagine, 14,90 euro, e che è un giallo che si intreccia con i temi del razzismo. Un giallo in cui fa capolino niente di meno che Mozart, e in particolare Mozart il massone, e La lettera perduta di Scott Mariani, pubblicato da Nord, 364 pagine, 18,60 euro. E infine vi segnalo l'ultimo arrivo, che riguarda un grande critico d'arte, Federico Zeri. Abbiamo parlato qualche volta di altri suoi titoli. L'ultimo, pubblicato da Longanesi, è La memoria e lo sguardo, i quadri, i luoghi, gli amici, gli incontri, le passioni. 216 pagine, 18,60 euro. Mi soffermo un momento su questo libro per una ragione sentimentale, perché questo libro pubblica l'ultimo intervento del grande critico d'arte, che fu tenuto il 3 ottobre del 1998 proprio con me. Mi piace ricordarlo, eravamo a un convegno in Brianza e quello fu l'ultimo, ma come sempre combattivo, intervento di Federico Zeri. Lo trovate in questo libro. Un libro molto attuale alla luce di quello che è successo in questi giorni negli aeroporti di tutta Europa è quello di uno scrittore svizzero ormai diventato inglese, Alain de Botton, che si intitola Una settimana all'aeroporto, è pubblicato da Guamda, 142 pagine, 13 euro, ed è tradotto da Ada Arduini. In questo libro, illustrato con le foto di Richard Baker, troviamo il frutto di una strana commessa che è stata data allo scrittore. La società che gestisce l'aeroporto di Londra, di Heathrow, infatti ha chiesto a De Botton di vivere per una settimana all'aeroporto con il fotografo e di trarre da questa esperienza un libricino che non è soltanto una cronaca giornalistica, ma è anche ricco di riflessioni e di spunti di ogni genere, anche di carattere sociologico, che ci può arricchire nel momento in cui dovessimo trascorrere qualche momento in più negli aeroporti, speriamo non per colpa delle ceneri vulcaniche. Prima di lasciarci vi segnalo che a Napoli dal 30 aprile al 2 maggio si svolge il Salone Internazionale del Fumetto Comic-Con. In questa occasione verranno presentati alcuni nuovi titoli. Vi ricordo per esempio Povere nullità del maestro Baru, scritto con uno scrittore francese, Pierre Pelot, che non è stato ancora tradotto in Italia, che invece ha avuto un grandissimo successo come autore di polizieschi nel suo paese. È un libro pubblicato da Coconino Press e Fandango. E ci sarà anche il romanzo Pierrot di Edmond Baudouin, e poi una novità di un nuovo artista francese, Chloé Cruchaudet, che si intitola Groenlandia Manhattan, anche questi pubblicati da Coconino Press e Fandango. E con questo ringrazio Vittorio Mussini in redazione e Peter Bescapè in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it. Sul sito www.radio24.it potete sempre riascoltare questa trasmissione, come tutte le altre della nostra radio. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento la settimana prossima.